storie de no altri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Come ogni domenica vi diamo la buonasera, Gesi e Antonio. Eccoci qua di nuovo, Antonio, e cominciamo il nostro programma. Stasera non abbiamo ospiti in studio, ma abbiamo degli ospiti virtuali, cioè per telefono. Benissimo, allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è www.bluradioveneto.it. Il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti e altro è il 346 23 20 033. È anche possibile naturalmente l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare un cordiale saluto al nostro regista. Come sempre, al nostro angelo custode. E salutiamo a questo proposito anche due amiche che ho saputo che ci ascoltano. Una è di Roma. Addirittura. Sì. E una è di Legnano. Benissimo. Intanto di queste ringraziamo sentitamente e le salutiamo. E diciamo che, come dicono a Roma, ci siamo allargati un pochino. Non dicono. Vabbè, noi ci siamo allargati. Può darsi che, sai, poi ci sia anche il passaparola. Benissimo, è questo che ci è necessario. Bene, allora stasera parleremo di Padova. Fra poco avremo al telefono il signor Vittorio Ingegneri, però prima ci ascolteremo una canzone dedicata a Padova, All'ombra della Spequer. Corso e fatta baro e ste ne facciaro spase ma ste pute per un vaso e un che a luna in cielo sarà un occhio par pudor e pian pian man in man e copie in amor e si basa con caior se scontrerà per fare più completa la nostra felicità. Per fare più completa la nostra felicità. Allora rientriamo in studio e continuiamo con il nostro Antonio. E naturalmente alcune letture di sempre di Mariuccia Baraldo Bazzaro, Cante, Conte e Tiritere, che sono molto simpatiche, io trovo. Tra le quali ci sono le favole di La Fontaine, diciamo tradotte, belle. Tradotte in padovano, che io cercherò di rendere, naturalmente essendo trevisano, eccetera, non sarà una, diciamo, farà storcere un po' il naso ai puristi, ma cercheremo di renderla al meglio. E il corvo e a volpe. E il poeiava messer corvo sopra un albero, con un bel tocco de formaio in tel becco, e a volpe tirà dal goesesso de quel boccon la che dice chiaro e netto: «Bondì, messer corvo, mi no conosco al mondo un oseo più bello de voi in tutto il bosco. Se è vero quel che si dice, che il vostro canto è così bel come belle gavele pene, vu assina fenice. A sto dir, nol gesta pinte a pe al corvo che il fa bioco, darghe in bota a volpe con a ochea, tira fora so canta più famosa e bea, sbara il becco che casca giù al formaio. A volpe a otol e a dise: «Ecco, caro mio, chi se a sa torpa il sesto paga il pegno. Fagane a to bon pro e pesa sta meba tua che aval più del to formaio». E il corvo scotà la ga intesa: «Massa tardi, giuro che te vedo, me asquaio». Che carina, molto carina. Molto bella. Sono sì. Belle queste cose. Ne hai un'altra? Sì. Così andiamo avanti con queste, certo, che sono certo. Simpatiche. È il sorze de città e il sorze de campagna. Un sorze campagnoio è già sta invita, co tanta che mai più creanza, a mangiare becanotti in squarquaciò da un amico sorze de città. Sentai sora un tappeto de Turchia, copiati parecià perché i magnasse quea gran le cornia, feissi co fa che fusse i re. Se il trattamento e pietanza la sipia sta de so garbo, no dirò, ma soio sa presentà un fatto che nel pibel del pranzo m'ingossò. Intendo dir che a porta s'ha sentio de botta un rabalton, un scampa pare il diavolo e porta, e scampa st'altro de repeton. Passa il bordeo, torna al suo posto il sorze cittadin, e partende che il pranzo a ogni costo el vaga fino al fin. «No, basta», dice il sorze de campagna, «vien domandami». «No se magnarà sentà in pompa magna, goiosessi fatti soio che darè, ma se magna, e nessun ti invena il pan, e manco che manco il bicer. Senza pase, anca una pansa piena, no par gustarse il suo piacer». È stata brava però, vero? Decisamente brava. Ah, sì. Eh sì, perché rendere queste cose che diciamo sono universali e hanno questo qualcosa, questo surplus di familiarità, sì, praticamente, sì. Come se le avessimo sempre sentite nella nostra lingua. Lo sai che ha tradotto, beh, il Pinocchio, l'avevo forse detto l'altra volta. Mi pare, tutto sì. Il Pinocchio e tutto il Bertoldo. Straordinario. Ah, ma guarda. Decisamente poi, straordinario. A parte anche le poesie che hai letto l'altro giorno a Livella. Esatto, esatto. È anche perché il principe non è facile da tradurre, naturalmente. Beh, ma lei... Molto, che, molto brava, decisamente. È che ha tradotto anche Leopardi. Però, dico, questa è un'altra, sì. Questa è un'opera, no. Diciamo... Sì. Non mi ricordo, non credo che ci sia su quel libro. No, non mi pare di averlo visto. Quella è sicuramente un'opera impegnativa. Beh, vediamo di farne un'altra parolina. Voilà. Sì, La cigaia e la formiga. La cigaia, che da piavoe tutta l'istà il sol si oeava, sprovvista di un'ete patoca, d'inverno batteva a broca, gnan più un granello e senza un musato nella credenza. Piena de fame e pianzotona, la va in cerca de a formiga par scrocarghe a stamona cal cosseta che non la fadiga, par poder fin alla prossima primavera sbrocarla via, qua promessa par l'agosto de pari e pata da animae, rendere interessi e capitae. A formiga che gal difetto de fare un prestio malvolentiera, la dimanda ben chiaro e netto: «Cosa che ha stufato fin a geri?» «Amiga cara, par dire il vero, non ho fatto altro che cantare tutto il tempo». «Brava, go caro. Ben, adesso vaia, se te pare». Anche questa è molto anche carina. Anche questa è decisamente splendida, sì. Bene, adesso ci ascoltiamo un'altra canzone, che è un po' in tema con che siamo d'inverno, ed è cantata da Adamo, «Cade la neve». «Cade la neve, tu non verrai questa sera, cade la neve, non ci vedremo, lo so. La città che dorme si copre di bianco, intanto il mio cuore si veste di buio. Questa sera non verrai, invano aspetterò, ma cade la neve lentamente dal cielo. Cade la neve, tu non verrai questa sera. Cade la neve, non ci vedremo, lo so. Nella via deserta, nemmeno una voce, mi sento morire. Non mi sei vicina, questa sera non verrai, invano aspetterò, ma cade la neve lentamente dal cielo. Eccoci di nuovo in studio, e per dare un po' un'idea, diciamo, del mondo di Mariuccia, volevo leggere la prefazione di Enzo Croatto a Cante Conte e Tiritere. Da anni seguo con attenzione i sapidi funambolismi dialettali di Mariuccia e da sempre mi sorprende e mi incanta la sua ricca e inesauribile vena, talvolta ironica e burlesca, ma sempre impregnata di sapori e odori antichi, di sognate e perdute usanze. Il meglio di lei l'ho colto soprattutto nelle impareggiabili toghissime scaltresse de Bartoldo del 1991, che Cortelazzo definì assai efficacemente un idioletto carico di profonde risonanze popolari. Certo, perché Mariuccia è davvero creatrice di un suo personale dialetto. Nei suoi scritti, infatti, ella usa una lingua che è uno straordinario cocktail linguistico, ove la rustica parlata pozzonovese di nonna Adelaide Contafole si fonde e si addolcisce con un padovano cittadino rielaborato e adattato secondo canoni personalissimi di effetto esilarante. In queste cante, Conte e Tiritere, si coglie nettamente il gusto dell'autrice per le contaminazioni linguistiche e per il calambur popolare, fonte inesauribile di comicità rustica ruspante. Ma le contaminazioni di Mariuccia, che a taluni paiono il segnale inconfondibile del degrado del dialetto schietto, sono in realtà una sua libera scelta, un'opzione di puro divertimento, giacché la sua vena autenticamente popolaresca si realizza proprio attraverso questo suo gusto incontenibile per la risata e il motteggio. Ma questa volta non si tratta più di boni magnari e goiosessi, del magnare puito secondo Mariuccia, beati i primi e i secondi ancora meglio del 1995 e fuori i secondi del 99, perché oggi Mariuccia ci apre lo scrigno magico dei suoi tesori e ci dispensa a piene mani i gioielli di una cultura orale che la sua memoria ha gelosamente conservato. E sono proverbi, filastrocche e preghiere infantili, epiteti, indovinelli e vecchie fiabe popolari. ma anche libere traduzioni, tra le quali ben 14 favole di La Fontaine, della quale abbiamo sentito prima un assaggio, godibilissime, perché la nostra traduttrice ha impiegato la stessa tecnica e lo stesso stile, faceto e realistico, usato per il Bertoldo di Giulio Cesare Croce. E si è voluta cimentare coraggiosamente, perfino con San Francesco, Canta de Creature, e con Guido Gozzano, La Notte Santa. Ah, è vero, sì. In questa sua raccolta figurano anche poesie originali, una anche in lingua, Ingegneria genetica, in cui l'autrice, con occhio disincantato, contempla ironicamente la condizione alienata dell'uomo contemporaneo, con le sue contraddizioni e i suoi tic, ma sa tratteggiare anche, con brevi, dolenti ed efficaci pennellate, la condizione passata e presente della donna. Cante, Conte e Tiritere è uno zibaldone di cultura popolare naive, una galleria aneddotica di personaggi, i racconti della Stella Boara e di macchiette padovane, Tony l'Imbriagon, a Gaetana, che Mariuccia osserva con suo sguardo benevolo e ironico. Nella congeria variopinta e divertente di queste pagine si trova davvero un po' di tutto. Brani di medicina popolare, i vari malanni e i metodi per guarirli, un racconto dettagliato sui procedimenti del bucato di un tempo, El Buga, con relative economie ed espedienti del periodo bellico, e ci imbattiamo perfino in un buffissimo trattatelo sulla flatulenza. Ma pur con l'abituale tono semiserio, la nostra Mariuccia sa indossare anche panni sociologici quando in un bel brano ci parla dell'importante funzione sociale autogratificante ed ergoritmica che il canto aveva un tempo tra lavoratori, le lavoratrici dei campi e le lavandaie, antica visione del lavoro cantà. Spassosi anche scritti che trattano di religione, di riti e di credenze religiose, e anche del loro contrario. Un ridanciano monologo sull'antico vizio italico dell'imprecazione, che non hanno qui nulla di blasfemo o di dissacratorio, perché quella che l'autrice ci presenta è la vera religiosità popolare diffusa un tempo nelle nostre campagne. Un misto di fede ingenua, realismo e arguzia. Una cosa a sé, e che mi ha sempre esilarato, assai diffusa peraltro, anche in altre regioni, è il cosiddetto latino del popolo, cioè le storpiature e i travisamenti popolari del latino ecclesiastico, un tempo incomprensibile a larghi strati della popolazione, e qui ben rappresentato. Dalla impagabile giaculatoria ruzzantina di Sant'Antonio, che si recitava per ritrovare gli oggetti perduti. Saquerio smeraqua, ghetto tomare in gringo, membra avece in perdita, petulum principibo, se venisse sette cani. Questo volume di Mariuccio Baraldo Vazzaro è dunque l'affettuosa testimonianza di una donna che ha vissuto in prima persona gli sconvolgimenti culturali delle campagne venete e che ha visto dileguarsi in un breve arco di tempo una cultura che era sopravvissuta, quasi immutata, per secoli. C'è anche un po' la biografia, no, vero, di Mariuccia. Sì, diciamo che al momento... No, perché stiamo parlando di Mariuccia Vazzaro, che è una poetessa padovana che è anche stata tra le fondatrici, penso anche la fondatrice delle Quattro Ciacole, che è il giornale. Esattamente. Sì. E adesso stiamo appunto leggendo questo suo libro, che ha scritto qualche anno fa, come si chiama? Cante, Conte e Tiritere, Fiabe e Fole. Comunque Mariuccia è un personaggio di spicco a Padova, perché ha fatto tante cose. Proviamo a vedere, Antonio, se lì nel libro trovi Ingegneria genetica, perché io ce l'ho a casa. Ingegneria genetica, sì, ce l'ho a casa, lo ma leggiamo no. Eventualmente dopo la prossima canzone. Volevo aggiungere che appunto così si parla di cose antiche, che il nostro poeta, scrittore, Lucio Favaron, ci ha parlato appunto della storia di Padova prima delle feste di Natale, vero? Esatto. Ed è arrivato, mi pare, fino al verso dell'Ottocento, no? Sì, sì, esattamente. Ecco, poi sì. Io adesso che ho trovato, parliamo un po' della Prima Guerra Mondiale, e qui dice che durante la Prima Guerra Mondiale Padova ricopre un ruolo di primissimo piano, prima accogliendo i feriti e parte delle truppe, poi dopo la rotta di Caporetto diventando la sede del comando militare italiano e alleato. La città viene violentemente bombardata dagli austriaci fino alla firma dell'armistizio che avviene a Villa Giusti, a sud della città, il 4 novembre 1918. Dall'aeroporto di San Pelagio a Due Carrare, a sud della città, era partito il 9 agosto Gabriele D'Annunzio, che avrebbe poi lanciato sul cielo di Vienna migliaia di volantini tricolori che appunto inneggiavano contro la monarchia a favore della conclusione del conflitto. Dall'aeroporto di Padova, sempre D'Annunzio, partirà poi alla conquista di Fiume. Ecco qui noi abbiamo fatto un saltino così dall'Ottocento dove fino ad arrivato e abbiamo parlato un pochino della prima guerra mondiale. E poi dice che tra le due guerre la vocazione commerciale della città cresce costantemente e nel 1919 si dà il via alla Fiera dei Campioni, che aumenterà di importanza fino al punto di fare sorgere l'esigenza del nuovo polo fieristico di via Tommaseo. La struttura della città si va pian piano modificato in parte a causa del continuo arrivo dei lavoratori dalla campagna, dove la crisi agricola diventa sempre più forte, come in molte parti d'Italia, e la disoccupazione è un problema ancora più grave che in città. Hai visto, Antonio, che anche allora c'erano problemi. Naturalmente non mancavano. Sì, di disoccupazione, esatto. La gente veniva dalla campagna. La precarietà non è di oggi soltanto, effettivamente. Sì. E così sorgono dei nuovi quartieri ad allargare appunto la periferia. La popolazione continua ad aumentare e nel 1911 il censimento conta poco più di 96.000 abitanti. Nel 1931 superano i 126.800 e nei 5 anni successivi crescono di altre 12.000 unità. Sempre secondo il censimento del 1931, la provincia è la quarta più densamente popolata d'Italia dopo Milano, Napoli e Genova. Si ricostruisce ciò che i bombardamenti austriaci avevano distrutto, ma si abbattono anche le mura, per secoli naturale barriera tra la città e la campagna, e vengono così abbassate, quando non eliminate del tutto, per unire il centro cittadino ai nuovi quartieri. La zona detta Santa Lucia, che si trovava tra le vie Santa Lucia e San Fermo, viene completamente abbattuta per lasciare posto alla nuovissima Piazza Spalato, ora Piazza Insurrezione. Ecco, così abbiamo visto anche così una piccola paginetta di storia. Naturalmente. Sì. Adesso ci ascoltiamo un'altra canzone. È un omaggio a Claudio Villa, che il 7 febbraio del 1987, quindi un po' di giorni fa, è deceduto circa proprio 25 anni, 87, proprio l'ultimo giorno del Festival di Sanremo. E noi lo ricordiamo con una canzone abbastanza allegra, ed è il Valzer dell'Allegria, cantata da Claudio Villa. Dice un proverbio nel mondo: chi vive cantando morrà sorridendo. Anche il destino, che cieco, puoi fartelo amico prendendolo in gioco. La vita è fatta di sogni, di pegni, di spegni, speranze e guadagni. Perciò al domani non devi pensare, se vuoi tranquillo campare. Questo è il valzer che tutti dobbiamo cantare allegramente, per le strade del mondo lo deve ascoltare tutta la gente. Se un dolore ti assale tu devi restare indifferente, per campare cent'anni tu devi cantar allegramente. Quando un amore t'abbandona, non prenderti pena, verrà la fortuna. Se non raggiungi una meta, tu pensa alla vita che non è perduta. Il mondo è un grande monile di fatti e parole, di bene e di male. Perciò al domani non devi pensar, se vuoi tranquillo campar. Questo è il valzer che tutti dobbiamo cantare allegramente, per le strade del mondo lo deve ascoltare tutta la gente. Se un dolore ti assale tu devi restar indifferente, per campare cent'anni tu devi cantar allegramente. Eccoci in studio e abbiamo al telefono l'ospite di questa sera, che è il presidente del giornale Il Quattro Ciacque di Padova, ed è il signor Vittorio Ingegneri. Signor Vittorio, buonasera. Buonasera Vittorio. Buonasera a tutti. Come sta? Anche i nostri ascoltatori. Come sta? Bene, bene, grazie. Diciamo freddamente bene. Ah, ho capito. Io so che il giorno 28 gennaio avete festeggiato i 30 anni della fondazione delle Quattro Ciacole. Sì, sì, so è vero. È stata vero. Una bella festa. Abbiamo fatto, come si può dire, il primo appuntamento con le celebrazioni del trentennale. Ah. Perché avremo più occasioni per festeggiare questo grosso traguardo, diciamo. 30 anni di vita per un'attività editoriale come la nostra, di carattere amatoriale, è un grosso traguardo davvero. E abbiamo iniziato, come dicevo, sabato 28 a Palazzo Moroni, cioè nella sede istituzionale del Comune di Padova. Abbiamo presentato un volume di poesie curato dalla nostra collaboratrice veronese Lucia Beltrame Menini. Il titolo dell'opera è A piè descalzi. Naturalmente già il titolo dice tutto. Certo. Come secondo appuntamento avremmo intenzione di realizzare verso maggio un convegno storico letterario sulla parlata veneta, e il tema, naturalmente curato da cattedratici del mondo accademico veneto, e il tema del convegno è il seguente: la storia della lingua veneta e la valenza della sua parlata nel terzo millennio. Ah. È un appuntamento ambizioso. Impegnativo, infatti. Sì, impegnativo. Come terzo appuntamento organizzeremo sempre per lo stesso periodo, maggio-giugno, un concorso letterario per testi naturalmente aperto ai veneti anche d'oltre Cortina, d'oltre Oceano, di poesia e di prosa in lingua veneta. Poi tutto quest'anno? Quest'anno, non mica finito. Poi a luglio andremo a eseguire la riedizione della Trebbiatura con una vecchia trebbiatrice di quelle in legno proprio storica, azionata addirittura da una caldaia a vapore. Ecco, stiamo chiedendo quale piazza il sindaco ci concederà per effettuare questa diciamo manifestazione, e farà contorno al tutto una esposizione di vecchie macchine agricole, vecchie attrezzature agricole. Bene, bene, bene. Quindi... Poi avremo a settembre la presentazione di un altro libro, stavolta di prosa, e sarà un libro che pubblicherò io. Ah. Stiamo per andare in stampa. Il titolo è Grassie Barba. Naturalmente questo... Scritto da lei, vero? Sì, scritto da me. E 8 anni di lavoro. No. Ecco, sono 400 pagine, sì, delle quali una sessantina di glossario, perché in questi racconti, che sono una serie di dialoghi fra zio e nipote, dove nella figura dello zio personifico la senilità, l'esperienza di vita, e nel nipote le giovani generazioni desiderose di conoscere il nostro passato. Molto interessante. Ecco, e naturalmente io metto dentro volutamente, cercandoli ovunque, vecchi termini, vecchie frasi idiomatiche, vecchi proverbi che non si usano più. Che vengono così salvati, naturalmente. Sì, quindi io penso di fare, prova ne sia che, fare un'azione di recupero, prova ne sia che la prefazione di questo libro è curata dal professor Michele Cortelazzo, che è il figlio del noto dialettologo Manlio Cortelazzo, sì, ecco. Sì, è bello. E lui ha anche detto fra le righe, mi ha fatto 4 pagine di prefazione, e ha detto anche fra le righe che lo considera un valido manuale didattico da diffondere anche presso le scuole. Questa è una grande... Volevo intervenire un attimo per dire che quest'anno l'Unione Europea ha come... cioè una delle date salienti è quella della... coesione e armonia tra le generazioni. È una giornata definita apposta per questo, quindi dico che coincidenza straordinaria. Sì, poi fra l'altro sono stato informato anche che sarà bandito un concorso per opere edite in lingua minore, nelle lingue minori. Bello. Quindi parteciperò modestamente, parteciperò anche col mio lavoro. E poi avremo anche... E per ottobre, novembre o dicembre, adesso vediamo la disponibilità del teatro, al Teatro Verdi daremo una commedia in dialetto veneto, naturalmente gratuitamente, sì, e dietro magari un'offerta che andremo a devolvere l'incasso a favore della Città della Speranza. Sì. Encomiabile iniziativa. Sì. E questo sarebbe il gesto, diciamo, di chiusura dei nostri 30 anni di vita editoriale. Però, veramente una cosa impegnativa e gratificante, penso, anche allo stesso tempo. Volevo sapere, la Mariuccia è stata fra le fondatrici della giornale? La Mariuccia è una delle poche rimaste ormai, poveretta, sì. È rimasto il... dunque, che è anche socio, Milos Vucenic, che è un attore e regista di teatro ruzantiano, e poi non ce ne sono altri, loro due, la Mariuccia e Milos Vucenic. E ha scritto parecchio la Mariuccia sulle 400. Sì, beh, la Mariuccia è una fonte, è stata una fonte per noi di cultura orale per quanto concerne le tradizioni, soprattutto diciamo sotto l'aspetto culinario, per esempio ha scritto tante conte. Sì, difatti, difatti. Il banchetto dei ciucetti, per esempio. Sì, sì. Ma poi ha tradotto tutte le favole di La Fontaine. Sì, beh, è bravissima. Poi ha tradotto anche il Pinocchio. Il Pinocchio. Bertoldo. No, no, il Pinocchio. Ha tradotto anche Pinocchio. Anche Pinocchio. No, no, no. Ha tradotto le Toghesse de Bertoldo. Bertoldo. Sì, quello Bertoldo, sì, Bertoldo, ma sì. Mi pareva che avesse tradotto anche Pinocchio, mi pareva. Guarda, non voglio... No, il Pinocchio l'ha tradotto il professor Belloni, che è stato uno dei... è mancato fra l'altro, è mancato qualche anno, sì, un paio d'anni fa, e ha tradotto il professor Belloni e il Pinocchio, e anche Ugo Schumann. Anche Ugo Schumann ha tradotto il Pinocchio. Sono due traduzioni completamente diverse. Sì. Con un taglio dialettale... uno più arcaico, sì, quello di Belloni, e invece più italianizzato, quello di Schumann. Di Schumann, sì. Ma anche Schumann ha scritto delle belle cose. Mm-hmm. Cosa ne dite di questa temperatura? È abbastanza freddo. È lì da voi. Ci conserviamo. Comunque, come da noi, da noi io sapete che sono di origine polesana, no? Sì, sì, sì. Ecco, da noi, quando nevicava, e mia nonna faceva le bacocque. Cosa sono? Una specie di... Le bacocque, non so se avete mai sentito nominare. No, le bacocque no. La prima volta. Erano grani di frumentone, ecco, che venivano bolliti in un bandone con acqua e cenere. La cenere... quella che usavano anche per fare Alicia. Sì. Poi le sciacquavano in acqua corrente e le mangiavano così, le bacocque. Le bacocco. Ma non so che gusto... Poi mia nonna faceva anche la polenta in fasolà. Con i fagioli? Addirittura, farcita, sì. Quindi. Sì, nell'impasto della polenta... metteva dentro dei fagioli già cotti prima, sì, in boccetto. Sì, oh, ecco, per condire la polenta. Non c'era mica tanto altro da svagarsi, da accontentare il palazzo. Sì, la vittoria diventava proprio un piatto unico allora. Quando soprattutto c'era quel garbin che bisognava mettersi davanti al camin, e faceva il cosiddetto breton de verse. Sì, questo l'ho sentito nominare ancora. Ecco, e se vi può essere gradita, sì, io ho scritto una poesia su questo argomento. Bene. Se ve la posso leggere? Certo, certo. Allora, breton che passion. Quando la sera m'intabara de caligo e la brosima imbroca e il fogliame partera, si ingarbina un castigo e le rece le sciocca da insustarmi la ghigna. Ecco, sgrisoloni frigna, e il barbisoio batte sbasio, stonà pide una chitarra, fin sotto la badoara, querta destrasse fora uso. Pardemo se venta il muso, a chi non piaceria, a costo de scantinare, imponararse puito suso, d'un cantonseio caldo, da galetto spavaldo, cercando de ninare, na scoea sui genoci, de verse pena broar, par non farse da gremare gli occhi, saghi infuse d'oscurierai, diventaria ancora amato, da bruciarmi parfin il gargato, ingiotendo pure sgorgonà, de che il fiade niente in tutto, che da poro de lubià sentia cantare un muto, miari de belle canzon. Oh, caldo breton, te sia ancora la mia passion. Che bella. Eccezionale, anche qui c'erano dei termini. Forse qualche termine oscuro. Perché è di origine polesana. Sì, difatti bello, comunque si è capito proprio il segno della questione. Poi, non dimentichiamo che siamo in carnevale. Appunto per questo. Allora, aspetti un attimo, perché prima mettiamo una canzone e poi riprendiamo. Lei ci aspetti al telefono, eh? D'accordo. Grazie, ci aspetti subito. Allora, come quarta canzone in programma c'è proprio una canzone intitolata Il Carnevale, cantata da Caterina Caselli. Il ballo è maschera, finisce qui, ma tu divertiti di nuovo in studio e abbiamo ancora in linea il signor Vittorio Ingegneri. Signor Vittorio? Sono qua, ecco. Presente. Allora, presente. Siamo in tema perché abbiamo ascoltato anche la canzone Il Carnevale, quindi adesso lei ci parlerà un po' del Carnevale. Vi propongo un piatto di fritto. Sì, dai. Allora, è una composizione così scherzosa che ho scritto sulla frittola. Sì. Che gran delizia che fritto bocconsin da ingolosire i noni e i putin. La frittola va ben piccola e tonda, con la ueta nordia che la inonda. Tenarina che un dio che se fonda, non conta che la sia marron o bionda. Calda de boio che la fuma tutta, ascotadeo la vasò bella asciutta, però che non la sia magra e ingiuta, la gà da lasciar tutta la gente muta. Chi la vuole insupà del vin bacò, chi impastà de creme a rococò, par darghe saori strani, ma mi no, mi la voglio normale, però se un goloseso che non fa male, va ben senza potaci al naturale, magari con l'ueta e un grande sale. Altro che pitocche groste de parolo che fasea è il Carneval da Fiolo. Bella proprio. Allora, a lei piacciono le frittelle, quelle semplici, no? Non quelle alla crema? No. Quelle senza niente dentro. Senza, le classiche veneziane le chiamano qui da noi. Certo. Comunque la frittella a proposito dei veneziani, ho scritto anche qualcosa che può interessare le maschere, no? Sì. È un tema abbastanza, diciamo, comune. Mascarette deluse. Mi sento un Arlecchin senza paroni, con una gran fame in cerca de bocconi, che non sente la forza più de fare falsi inchini ai scioroni e alle comare. Mi figuro Rosaura Poareta senta su una poltrona massa stretta, con la vestaglia sbusa e sabatelli che pianse quei tempi de feste belle. Me pare d'esser il vecchio pantalon che le palanche conta de scondon e pensa di impegnar par carnevale quel poco che in palazzo ancora vale. Immagino il dottor e il dolor de Colombina che impastando fritole in cucina gli viene in mente tutte le gran bugie che gli contava l'elio pae mercerie. Perdoneme sto pianto da funerale, sono una mascaretta che ama il carnevale. Forte. La maschera di Venezia è Arlecchino, no? Sì, certo. Sì. Ma io la conosco così. La piemontese non mi ricordo più. Gianduia. E invece pantalone è veneziano, no? Sì, pantalone, sì. Comunque sono belle le mascherette. Sì, sì. Io non so se si ricorda che una volta da piccoli si andava a vedere i burattini. Sì, e c'erano delle compagnie che andavano per le piazze. Sì. Sì, ricordo. E tu, Antonio, e facevano questi spettacoli e non c'era mica tanto altro. No, è come che c'era il cantastorie ancora prima, sì, praticamente. Sì. Cantastorie che adesso viene rivalutato, in effetti. Sto facendo un corso di informatica, praticamente, e allora dice che la nuova frontiera per l'insegnamento dell'informatica, di queste nuove tecnologie, è quella del cantastorie. Quindi il passato viene rivalutato, non è che siamo tanto ignoranti, anzi, sì, dirò, che probabilmente l'ignoranza sia da parte delle giovani generazioni, nel senso che noi ha un capitale di memorie come chiamavano altri. Certo, non è che snobbino, però non vedo tanto interesse. Infatti nella nostra organizzazione è molto problematico il ricambio. È sempre purtroppo vero, esatto. Però bisogna insistere, credo, per esempio, meritorio. Abbiamo un bellissimo patrimonio di proverbi. Sul febbraio ve ne leggo qualcuno. Sì, certo. Per esempio qua, febraro febraretto con la fogara e le bronze in letto. E una volta sì, si usava il fuoco a letto. A Monega. Sì, la Monega. Sì. Poi, febraro curto, peso di tutto. La neve febrarola dura una cagarola. Se te ga un scioccato staionà, metteo in cammin prima de verte collega. Febraretto, curto e maledetto. Quella di prima non l'ho capita tanto. Quale? Prima di questa. Quella del sciocco. Quella del sciocco, sì. Un sciocco. Se hai un legno, un pezzo di legna di stagionata di quelli belli e grandi, mettila pure sul cammino prima di andarti a coricare. Ah, ho capito. Sì, in maniera che ti tiene caldo tutta la notte, finché dormi, insomma. Sì. Ecco, signor Vittorio, siamo giunti ormai alla fine del nostro appuntamento. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Bello, sempre molto simpatica. E a noi non resta altro che ringraziarla infinitamente, ci mancherebbe, perché ci è sempre molto piacevole parlare con lei, e spero che magari... Sa che le avevo detto che avrei avuto un, sì, un appuntamento in redazione. Sì, sì, sì. E no, sono riuscito a far andare al posto mio un collaboratore. Lei è stato grande, grande, grande. Comunque noi la ringraziamo veramente di cuore e l'aspettiamo in qualche altra prossima trasmissione. Volentieri, un salutone a voi. Grazie. E alla vostra redazione. Grazie. Complimenti mille per la trasmissione. Grazie. E un salutone anche agli ascoltatori. Okay, buona e serata. Un buon carnevale. E buon carnevale, a risentirci. Di nuovo, a risentirci. A risentirci. Vittorio. Ecco, noi adesso ringraziamo il signor Vittorio Ingegneri e andiamo con un'altra canzone che è la quinta canzone in programma ed è intitolata Questa è la mia vita ed è cantata da Domenico Modugno. Questa è la mia vita e ve la racconto, breve riassunto di poesia e pianto. Questa è la mia vita, sono a metà strada, chi mi ascolta creda, chi non vuole vada. Anni di illusioni, sogni e delusioni che ha vissuto un uomo da quel giorno che venne a questo mondo con un viso allegro, lavoro da negro, lavoro per tre. E ogni ruga è un bel fiore, un pensiero d'amore. Ah, un'amara conquista, un dolore di testa, un sogno in più. Una vita inventata e vissuta tra la gente che odia e che ama. Quanta ne ho conosciuta, ognuna una trama e ognuno fa parte di me. Ecco la mia vita come nei fumetti, molto colorita, piena di difetti. Ecco le mie mani che han saputo dare, che hanno dato tanto senza mai rubare. Ecco la mia donna che mi lascia fare e malgrado tutto vince sempre lei. Ecco la mia vita, ecco la mia età, è da mille anni che non vivo qua. E ogni ruga è un bel fiore, un pensiero d'amore. Ah, un romanzo, una storia di sconfitte, di gloria, di verità. E ogni ruga raccoglie 10 anni di profondi silenzi e parole, di risate ed affanni, dolcezze ed inganni, di errori stupendi per me. E ogni ruga è un bel... Oh, stasera abbiamo parlato di tante cose, Antonio. E per concludere così con la Mariuccia, che... ne abbiamo parlato prima. Vuoi leggere quella poesia? Sì, di cui si parlava prima. Sì, Ingegneria sì, genetica, sì, sì. È una poesia in lingua questa. Sul pentagramma della vita solcano il tempo note di suggestiva musica, reminiscenze, suoni che ricalcano voci, galà di musiche da tramandare ai posteri, ali cosmiche conquistano nell'etere spazi ancestrali, sigillo a sconfinati buchi nell'ozono agonizzante. Si speme, novella arca di Noè, a salvare arcaica fauna, volo di colomba deponga ancora virgulto d'ulivo, Pace, uomini di buona volontà, albe nuove colorano etnie, avanzata tecnica sia l'essenza per epidermi di uniformi in armonia con creato e umanità, margine per estinguere funesta guerra fratricida, sbocci nuova vita e sia fragranza di musica vera. Bella però, eh? Molto bella. Sì, molto. E diversi anni che ce l'ho io che la poesia me l'ha mandata la Mariuccia molto, proprio. Molto bene. Allora, siccome martedì è San Valentino, io pensavo di dedicare ai nostri ascoltatori una poesia d'amore. Che dici tu, Antonio? Benissimo. E allora, siccome stiamo parlando, siamo in tema di Padova stasera, leggo una poesia d'amore di un poeta padovano che è Walter Boldrin ed è intitolata Pensiero d'amore. Mi accogli ammantato di neve questo tempo del cuore. Fuori digradano i toni del grigio e un'eco lontana raggela l'ulivo. Ti penso e rivedo quei gesti, quel tuo sguardo, e mi accorgo di andare al vago ricordo di un tempo passato, quando amavo l'impulso, la pacata bellezza e la gioia serena che emanava la tua primavera. Assurda nostalgia dei vent'anni, se più di ieri io t'amo. Ora che conosco il tuo respiro notturno e le ansie e il presente calore del corpo, gli affanni di piccoli segni del tempo, sazio di te e ogni pensiero. Hai colmato i miei vuoti, illuminato le penombre angosciose, ricambiando il mio amore, e più non mi turba l'evaporare incessante degli anni. So che domani tornerai sereno, che verranno fiori sui rami. Finché la vita ti assopirà nell'infinito, so che continuerò ad amarti. Molto bella. Bella, vero? Molto bella. Bene, ormai siamo giunti... Siamo in via così di conclusione. Stavo facendo una riflessione prima. Sì. E io sto anche conducendo un corso di informatica, allora si parla tanto di digital divide, quel divario digitale tra le generazioni, eccetera. E però molti non sanno e non si rendono conto che esiste un divide, cioè un divario ancora più profondo e più grande, che è il memory divide. Ed è esattamente l'opposto. Le nuove generazioni, che non ne hanno colpa evidentemente, non hanno quel patrimonio di conoscenze, di memorie che hanno gli anziani. E quindi sì, padroneggiare i nuovi strumenti, eccetera, ma soprattutto fare memoria. Ripercorrere strade, diciamo, che loro non hanno mai percorso, ma che possono essere utili nella vita per evitare errori che sono stati commessi nel passato. Io credo che questa sia una riflessione da poter condividere. Eh sì. Comunque, cosa stai facendo? Un corso di informatica? Sì, sto tenendo dei corsi di informatica per persone anziane, un corso di alfabetizzazione, diciamo, cioè, per la nostra città di Roncade. Proprio i primi... Sì, sì, i primi approcci per anziani e per gente che non ha mai visto... Ma mai cosa ti pare che accolgano... Abbiamo delle liste d'attesa, perché da pochissimi che pensavamo di avere come soggetti, come utenti, stiamo avendo un successo straordinario. Ben al di là delle aspettative. Beh, sai, è sempre bene cominciare, anche se non siano più vent'anni. Vabbè, allora, beh, Antonio, io ringrazio te. Grazie a te e grazie naturalmente all'ascoltatrice e agli ascoltatori, anche quelli che soprattutto quelli che ci ascoltano da lontano. Sì, speriamo che ce ne sia qualcuno di più. Bene, allora, assieme a te, Antonio, e assieme al nostro regista Eddie, diamo a tutti la buonanotte. Ciao! Alla prossima volta. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.